La lepre e le rane, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Non sapendo una lepre cosa fare nella sua tana, per uscir di tedio sulla sua sorte prese a meditare. Dormire o meditare è un gran rimedio. O disgraziati sempre timorosi, dicea fra sé quel povero animale, che da paura internamente rosi non c'è piacer che non finisca male. Anche il boccon ti si conficca in gola, vivi e dormi sospeso, in crucci, in pene. Ogni voce, ogni uccel che in l'aria vola, ti fa gelare il sangue nelle vene. Correggiti, mi dice un barbassoro, ma si corregge il mal della paura? Ho veduto fior d'uomini, anche loro, far talvolta una misera figura. Trista, crucciata e di paura gialla, così dicea, quando a un tratto s'udiva un fruscio che la fe le gambe in spalla ad uno stagno scarpar presso la riva. Le rane al suo venir saltan nel fosso e dentro al fango ciascuna si abbica. «Oh, oh!» grida la lepre, «e dunque posso essere anch'io terribile nemica? Hanno paura un fulmine di guerra, mi credono, non son quel che già fui. Ho capito, non c'è poltrone in terra che non trovi un poltrone più di lui». Fine della favola La lepre e le rane. Questa registrazione è di dominio pubblico.